in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Come sempre iniziamo dal Sole 24 Ore, che ha un titolo diverso dagli altri perché, come potete immaginare, dedica l'apertura a tutto quello che è stato detto ieri al convegno dei giovani imprenditori che si è svolto a Santa Margherita Ligure. Il titolo è un virgolettato del presidente di Confindustria Boccia: il circolo virtuoso che serve al paese. Alle pagine 2 e 3 trovate tutti i diversi interventi che ci sono stati, divisi per argomenti, quindi immigrazione, Europa, amministrazione, economia e competitività. Sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore un'analisi di Guido Tabellini sulla famigerata Brexit, cioè la possibile uscita della Great Britain dall'Unione Europea. Il referendum, lo sapete, è fissato per il 23 di giugno e in quella data i britannici decideranno se restare, to stay o to remain. Questo sarà il quesito, molto semplice: restare o andarsene dall'Unione Europea. Perché se ne parla tanto in questi giorni? Perché sono usciti sondaggi in cui il fronte del andarsene sarebbe in vantaggio di circa 10 punti su quello sui cittadini che invece vogliono restare all'interno dell'Unione Europea. Resta l'incognita degli indecisi, però appunto i sondaggi che fino a 3-4 giorni fa davano le due posizioni più o meno alla pari, adesso quasi tutti danno invece in vantaggio di una decina di punti il fronte del sì, andiamocene dall'Unione Europea. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche la consueta lettera al risparmiatore che ogni domenica Vittorio Carlini compila, una pagina intera, la trovate questa settimana a pagina 18, dove ci si focalizza su un titolo quotato per cercare appunto di dare consigli a chi l'ha già in portafoglio o chi lo stesse considerando. Questa settimana è La Fila, che è sinonimo di matite, però come ci spiega Vittorio Carlini in realtà ci sono anche delle diversificazioni. Con le acquisizioni più ricavi dai prodotti per artisti, e lo trovate appunto poi a pagina 18. La prima pagina del Corriere della Sera ha una fotonotizia dedicata alla fantastica regina Elisabetta, che ieri ha partecipato alle celebrazioni per i suoi 90 anni. Aveva un vestito verde che in realtà nella foto del Corriere non sembra così verde come in realtà era, perché era quasi un verde fosforescente. E qui l'analisi, la fotonotizia è questa della regina accanto al principe Filippo, ma l'analisi, sotto la fotonotizia c'è l'analisi sempre sulla Brexit, questa volta dell'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, le ragioni e i falsi miti che avvolgono la Brexit, un lunghissimo articolo che poi trovate alle pagine 2 e 3. Il titolo vero e proprio però è riferito all'intervento che ieri Renzi ha fatto a Roma nel Festival Repubblica delle Idee, durante un lungo dialogo con Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica. Ha detto moltissime cose, ha parlato anche di pensioni, e quindi il titolo del Corriere della Sera: pensioni e sgravi per fare le riforme servono 7 miliardi. E poi il Corriere della Sera richiama anche quest'altra dichiarazione, che poi trovate su tutti i giornali, di Matteo Renzi, che vorrebbe introdurre una legge per imporre non più di 2 mandati per un premier. La Repubblica titola proprio su questo, il virgolettato è un termine per il premier, e appunto viene ripresa c'è la foto di Scalfari sul palco di Repubblica delle Idee con Eugenio Scalfari. La fotonotizia però è stata scattata a Marsiglia, dove ieri, soprattutto al Porto Vecchio della città francese, ci sono stati gli scontri tra hooligans, cioè i tifosi più violenti dell'Inghilterra, i tifosi più violenti della Russia, e poi pare anche molti altri tifosi delle frange più violente di alcune squadre francesi, tra cui il Paris Saint-Germain, arrivati apposta per partecipare a questi scontri. Il titolo: follia hooligans agli europei, battaglia al porto di Marsiglia. E come vi dicevo, parte del dialogo tra Matteo Renzi e Eugenio Scalfari lo trovate alle pagine 2 e 3 della Repubblica. Anche La Stampa sceglie di prendere spunto da questo lungo dialogo che c'è stato ieri a Roma, con un titolo però leggermente diverso: Renzi, siamo più forti dei grillini, il populismo perché l'Unione Europea non va. Vi segnalo anche sulla Stampa la fotonotizia, una foto diversa però sempre scattata a Marsiglia degli hooligan, la furia degli hooligan che inneggiano alla Brexit. Anche qui un'analisi di questo prossimo voto che ci sarà nel Regno Unito, perché il Regno Unito deve restare nella UE. In questo caso è di Stefano Stefanini, lo trovate, inizia a pagina 2, poi lo trovate a pagina 23. E poi un intervento congiunto di Maria Elena Boschi, ministro delle riforme, Deborah Serracchiani, vicepresidente del PD e presidente del Friuli Venezia Giulia, governatore del Friuli Venezia Giulia, che riprende un po' tutte le questioni, chiamiamole così, anche se non è un termine bellissimo, le questioni femminili di questi giorni, a partire naturalmente dal femminicidio. Nulla fermerà la rivoluzione delle donne. Il Messaggero anche in questo caso sceglie un virgolettato, proprio sceglie il virgolettato che riguarda il limite ai due mandati per un premier, e poi anche riporta un'altra dichiarazione di Renzi: sono pronto a firmare subito anche un disegno di legge, il potere logora chi ce l'ha. Naturalmente il riferimento è una delle tante famose frasi di Giulio Andreotti, che appunto tanti anni fa disse: il potere in realtà logora chi non ce l'ha, perché il proverbio direbbe il potere logora chi ce l'ha. In questo caso abbiamo detto il passaggio sul populismo che viene alimentato dalle inefficienze dell'Unione Europea. Qui il consueto intervento della domenica sul Messaggero di Romano Prodi: gli errori dei partiti che aiutano l'antipolitica, populismi e crisi. Il Giornale ve lo segnalo in primo per questo provvedimento che ha annunciato da 1 miliardo che verrà approvato e che dovrebbe sistemare i conti delle città rosse, così dice il Giornale. Renzi fa pagare a tutti i debiti dei comuni PD. E poi naturalmente Alessandro Sallusti, direttore del Giornale, risponde alle polemiche innescate dalla decisione di regalare da ieri con il Giornale il libro Mein Kampf, che vuol dire La mia battaglia, che è l'unico libro scritto da Adolf Hitler, in cui si trovano naturalmente tante delle sue convinzioni, in particolare quelle sull'antisemitismo. La cronaca di quello che è successo ieri, annunciata sulla prima pagina del Giornale, bufera sul Giornale, ma gli antisemiti stanno con la sinistra. E poi il commento di Alessandro Sallusti: veri ipocriti e falsi moralisti. Ne vedremo anche su altri giornali tanti altri commenti, per esempio sull'Unità, che è saltata proprio su questa polemica, addirittura dedica questa polemica sull'iniziativa editoriale del Giornale la prima pagina, che è intitolata Senza vergogna. Il Giornale porta al ballottaggio il Mein Kampf, delirio di Hitler e manifesto del nazismo, proteste ovunque di fronte alla provocazione, silenzio assenso dei candidati grillini. Questa è l'interpretazione dell'Unità, che a questa vicenda dedica le pagine, come vi dicevo, la copertina. E poi praticamente dalla 2 alla 5. Vi segnalo l'intervento di Emanuele Fiano, esponente di punta del PD ebreo, che scrive un articolo che inizia sulla prima pagina dell'Unità e continua a pagina 2. Ve ne leggo la prima parte. La mia prima domanda è: perché? Perché un quotidiano nazionale sente il bisogno, a oltre 70 anni dall'accertamento della terribile verità su tutto ciò che ha riguardato lo sterminio da parte della Germania nazista, di pubblicare la summa ideologica del più grande criminale contro l'umanità che la storia contemporanea ricordi? Io non sono sicuramente obiettivo, dato che costui è il responsabile dello sterminio di 11 miei parenti di sangue, tutto il ramo paterno della mia famiglia. E poi scrive ancora: ma distaccandomi per un momento dalla vicenda personale, credo che si possa affermare che non c'è giustificazione possibile che possa perdonare la diffusione del Mein Kampf di Adolf Hitler. Peraltro un conto è la sua comparsa in qualche libreria, altro conto è spingere la sua lettura tramite un quotidiano che distribuisce 100.000 copie di un testo criminale, seppur accompagnato da un commento. Da poche ore il Parlamento ha approvato una legge che istituisce per il nostro Paese, così come avviene nel 90% dei Paesi europei, l'aggravante di negazionismo per i vari reati di discriminazione già presenti nel nostro ordinamento, il che vuol dire che verrà punito con la reclusione chi promuove atti discriminatori o diffonde idee discriminatorie di cui peraltro è piena oggi l'Europa. E continua ancora poi a pagina 3 l'intervento di Emanuele Fiano. Ci lasciamo però un attimo per una pausa in cui sentiremo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. Vi segnalo ora L'Avvenire. che titola su una questione molto cara a questo giornale, che è quella dell'inquinamento nella Terra dei Fuochi in Campania. E ieri il Premier ha dichiarato: libereremo la Terra dei Fuochi, l'impegno del Premier in visita in Campania. Ma la fotonotizia è dedicata a Papa Francesco, che ieri ha ricevuto in udienza i partecipanti al convegno per le persone disabili promosso dalla CEI in occasione del 25esimo dell'istituzione del settore per la catechesi delle persone disabili. E il titolo che l'Avvenire sceglie per questo incontro è: se il sacerdote non accoglie, chiuda la chiesa, richiamo di Francesco a favore dei disabili. La prima pagina di Libero: attenti che Silvio torna. L'opinione di Fausto Carioti, l'analisi è che Berlusconi non mollerà la politica, sapete, verrà operato, avrà un'operazione a cuore aperto che durerà presumibilmente 4 ore martedì, però appunto, nonostante così le dichiarazioni del suo medico curante, che auspica che Berlusconi rallenti sull'impegno politico, appunto l'analisi di Libero, la prima mossa sarà individuare un tuttofare che tratti con gli alleati e compili le liste se si voterà nel 2017. A proposito del regalo di Mein Kampf del giornale, in allegato al giornale, l'opinione di Vittorio Feltri, direttore di Libero, ex editorialista del giornale, che dice: la lotta sbagliata al giornale sul Mein Kampf in allegato. Il Fatto Quotidiano ha un titolo ancora diverso, perché è un'inchiesta appunto a cura dei giornalisti del Fatto: 4 cellule e un broker, traffico d'armi Italia-Libia. Il carico è già arrivato, pagamenti a Milano, Roma e Bergamo. Il manifesto Sex and the City, quindi un titolo ancora diverso, e la foto è stata scattata ieri a Roma, dove c'è stato il Gay Pride. Roma è tornata ieri una grande capitale europea con il Gay Pride più gioioso, combattivo e partecipato. La Gazzetta dello Sport: Eurobestie, con anche in questo caso una foto scattata ieri a Marsiglia degli hooligans che hanno inscenato la loro guerriglia nel Porto Vecchio di Marsiglia. Torniamo al Sole 24 Ore, nelle pagine interne, perché a pagina 7 c'è tutto un approfondimento sul Tax Day. Cioè, sapete che giovedì, il 16 di giugno, è un giorno importante per tutti i contribuenti. Si pagano le imposte dei modelli unico, IRAP e IVA, oltre all'IMU e alla TASI. Giovedì alla cassa per 24 tasse e contributi. C'è proprio lo schema. E poi un'analisi di Andrea Carinci: la grande festa pro fisco va ripensata. E poi vi segnalo anche un'iniziativa che inizia martedì invece, quindi il 14 giugno, e durerà fino al 6 di settembre. Ogni martedì e mercoledì con il Sole 24 Ore troverete un libro di questa nuova collana, L'economia per la famiglia, che appunto riprende, come spiega Fabrizio Calimberti nel presentare la collana, tutti i temi dell'economia, ma spiegati appunto in modo divulgativo, non per tecnici. Si inizia con inflazione, moneta e tassi, martedì appunto, e poi un altro tema di cui sentiamo spessissimo parlare, che è quello della crescita. Crescete e moltiplicatevi, questo è invece il tema del libro che sarà in edicola mercoledì. La crescita economica è un mistero, perché alcuni paesi crescono e altri no, capitale e lavoro non bastano, il ruolo della produttività, la demografia e il capitale umano. E poi appunto a pagina 13 trovate lo specchietto di tutte le uscite, che sono 24 da qui al 6 di settembre. Il Corriere della Sera ha un approfondimento dal corrispondente da New York sul percorso verso le elezioni americane. Sapete che Hillary Clinton ha ormai ufficialmente la nomination del Partito Democratico, Trump non ce l'ha ancora, ma di fatto probabilmente l'avrà a breve, e però continuano le polemiche interne al partito, e quindi il conclave dei no Trump, ci racconta Giuseppe Sarcina. E guardate, anche qui torna il nome di Hitler, perché l'ex candidato alla Casa Bianca Mitt Romney, che perse contro Barack Obama, riunisce a porte chiuse i repubblicani moderati, e tra le tante cose che ha detto ha paragonato Trump a Hitler e Mussolini. Poi una di quelle storie, da quelle pagine da Mani sul Volante, riguarda i trasporti in Campania. Il buco nero dei trasporti: l'azienda appunto dell'ente autonomo Volturno, che gestisce il servizio ferroviario e funiviario dell'intero territorio campano, di cui è socio unico la regione campana, ha un buco di 700 milioni e tra l'altro chiede aiuto, perché dice: operiamo in un contesto criminale, così muore la ferrovia in Campania, la pagina di Gian Antonio Stella. E poi un'altra pagina intera, questa volta firmata da Martina Pennisi, con un commento di Beppe Severgnini gli ultimi dati sul tempo speso sui social network. Nel primo trimestre 2016 rispetto al primo trimestre 2015 è diminuito praticamente in tutti i paesi e per i quattro principali social network presi in considerazione, cioè Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. È in calo il tempo che trascorriamo su Facebook, Twitter e gli altri, già stanchi dei social. E sulla questione Mein Kampf vi segnalo un articolo di Tonia Mastrobuoni, che è corrispondente da Berlino della Repubblica, la trovate a pagina 9. In Germania il Mein Kampf è tornato un bestseller, però la maggior parte degli storici e dei commentatori dicono senza le note critiche non dovrebbe essere pubblicato. Un altro interessantissimo, secondo me, articolo, anche qui una pagina intera, questa volta di Antonio Fraschilla, che ci racconta uno studio presentato dalla Fondazione De Benedetti, che spiega come i bambini che hanno l'opportunità di andare all'asilo nido crescono sani e imparano di più. Il problema è che in Italia solo il 13% dei bambini trova posto nelle strutture dell'infanzia. La regione dove c'è la media più alta è l'Emilia-Romagna, che sappiamo ha una grande tradizione positiva, addirittura copiata all'estero, di non soltanto di asili nido, ma anche di asili e di scuole elementari. La percentuale, abbiamo detto, in Italia è del 13, in Emilia-Romagna sale al 27, la più bassa è in Calabria, dove è il 3%. Sulla questione del Mein Kampf vi segnalo ancora un articolo di Vlode Goldkorn a pagina 23 della Repubblica, e vi leggo la prima parte, si chiama La banalità dell'odio. Quando Umberto Eco decise di lavorare a un romanzo che uscì nel 2010 con il titolo Il cimitero di Praga e che ha al centro della trama le origini dei protocolli dei savi di Sion, il grande semiologo e scrittore voleva raccontare quanto l'antisemitismo fosse alla radice di tutte le teorie complottistiche della storia e di tutti i razzismi passati, presenti e futuri del mondo moderno. O, se vogliamo, l'antisemitismo è l'idioma comune di tutti gli xenofobi, omofobi, islamofobi, sostenitori della supremazia della razza bianca, che peraltro non esiste, del nostro universo. Ed è così non perché gli ebrei sono dotati di qualche caratteristica particolare, ma perché è facile, spesso redditizio dal punto di vista politico, ma anche volgarmente economico, trovare un capro espiatorio e un oggetto di aggressione e di odio. Basta una narrazione, anche bislacca, con cui convincere le persone che le loro disgrazie sono colpa di poteri occulti. Era questo il messaggio politico e letterario, le due cose vanno insieme, di quel romanzo di Eco. Una bella storia invece sulla Stampa, la trovate a pagina 18 della Stampa, la racconta Valentina Roberto, perché oggi, accompagnati dai volontari della LIPU, la Lega che difende gli uccelli, si può andare a spasso per osservare le cicogne, questi uccelli affascinanti e così simbolici. A spasso col custode delle cicogne, accompagnati dai volontari LIPU, si possono osservare le coppie in attesa dei piccoli. E naturalmente è un'iniziativa che serve anche a sensibilizzare sui pericoli che questa specie corre. La nostra sfida è tutelarle perché non scompaiano. Dal Messaggero vi segnalo un'intervista a Giovanni Malagò, presidente del CONI, sulle Olimpiadi. Sapete che tra poco ci sarà un referendum a Roma. La anomalia di questo referendum, in cui i cittadini romani diranno se sono favorevoli o no alle Olimpiadi, è che viene proposto dopo che la Roma si è candidata, mentre in tutti gli altri paesi e città in cui si sono tenuti questi referendum si sono tenuti naturalmente prima che venisse avanzata la candidatura. Tra l'altro, da quando la candidatura è stata avanzata sono già stati spesi tanti soldi, quindi appare un po', insomma, bizzarro. Come sempre noi in Italia facciamo le cose un po' strane. Comunque il titolo dell'intervista è Roma 2024, serve coraggio, basta con l'autolesionismo. Malagò dà un'intervista, sempre sugli stessi temi, anche all'Avvenire. Qui il titolo è L'Italia ai giochi oltre la medaglia, e anche in questo caso naturalmente Malagò spiega perché naturalmente lui è favorevole a questa candidatura del 2024 e naturalmente si auspica che l'esito del referendum sia positivo. Siccome vi segnalo dal Messaggero, la notizia la trovate anche altrove, perché è partita da Roma questa iniziativa, è partita la schedatura del DNA dei detenuti delle carceri, quindi si inizia con Regina Celi, già effettuati 138 prelievi soltanto ieri, così diventa operativa la banca dati istituita per legge. L'archiviazione è prevista solo per chi ha commesso reati non colposi con più di 3 anni di pena, e protestano i sindacati. Ultimissima segnalazione prima di dare la linea alle informazioni sul traffico, sempre dall'Avvenire: uno studio del Pew Research Center sul fatto che non sia solo il Regno Unito ad avere una percentuale sempre maggiore di cittadini sfavorevoli all'Unione Europea, l'Europa che non piace agli europei. Negli ultimi 12 mesi il consenso verso l'Unione è crollato. Grecia e Francia sono i paesi in cui le percentuali sono più basse. E ci lasciamo allora un attimo per il traffico. In primo piano. Ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Per l'ultima parte della nostra rassegna stampa abbiamo parlato delle carceri con l'inizio del prelievi per la schedatura, diciamo, dei detenuti con il corrispondente DNA iniziata ieri a Regina Coeli. Sul Fatto trovate un'altra questione che riguarda le carceri: il sovraffollamento per il quale sapete siamo anche stati più volte richiamati anche da Amnesty International e da altre organizzazioni. E l'articolo di Giampiero Calapaci spiega come le carceri siano al collasso: 8.353 i detenuti senza posto. Prima di passare ai supplementi culturali, una bizzarra pagina su Libero del nostro amico, tra virgolette, Antonio Socci, che non si occupa di Papa Francesco oggi, ma del Papa Emerito Benedetto XVI. Il titolo dell'articolo è Ratzinger e Silvio, vittime dello stesso complotto. Benedetto XVI era un ostacolo all'Europa, a guida tedesca e americana. Come Berlusconi, fu costretto alle dimissioni. Questa è la pagina intera di Libero, pagina 9, su questo doppio presunto complotto. Passiamo quindi ai supplementi della domenica. Cominciamo dalla domenica del Sole 24 Ore, dalla rubrica Breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Domande, parte da una citazione di Milan Kundera. La stupidità della gente deriva dall'avere una risposta per ogni cosa, la saggezza deriva dall'avere una domanda per ogni cosa. Scrive Ravasi: questo elogio della domanda è di Milan Kundera e si allinea a una lunga sequenza di autori che hanno celebrato l'ars interrogandi, arte più da maestri che da discepoli, perché bisogna aver imparato molte cose per saper domandare ciò che non si sa, ammoniva Rousseau. Ed effettivamente l'intelligenza di una persona si misura proprio sulla profondità delle sue domande, che spingono la conoscenza oltre la frontiera dell'ovvio. Purtroppo il trionfo dello slogan e dei tweet ci ha abituato alla risposta preconfezionata, pronta a incartare nello stereotipo, nella banalità, anche le questioni più complesse e delicate. L'animo umano invece nasce col desiderio di trovare il senso intimo delle cose, come ci insegnano gli instancabili e temuti perché dei bambini. Questo desiderio viene narcotizzato dalle risposte superficiali e dai luoghi comuni, e invece bisognerebbe risvegliarlo perché, come diceva il Socrate di Platone, una vita senza ricerca non merita di essere vissuta. È sempre dalla prima pagina la rubrica Memorandum di Roberto Napoletano, che accoglie l'appello di un giovane lettore, un avvocato di 33 anni, Federico Colucci, da cui il titolo La rivoluzione culturale di Federico e i giovani della domenica. Questo lettore invitava il nostro direttore, nostro di Radio 24 e del Sole 24 Ore, a dedicare una sezione del domenicale alle storie dei giovani, e il direttore appunto dice: lo faremo. L'articolo di copertina vero e proprio si intitola Profondità del pragmatismo, parte da un libro appena pubblicato da Carrocci, e Alessandro Pagnini ci spiega appunto come questa scuola filosofica, giudicata spesso ingenua o primitiva, scaturisce invece da un'imperitura e attualissima lezione filosofica. Armando Massarenti invece, a pagina 15 del Domenicale, partendo da una nuova biografia di Jorge Luis Borges, Il fattore Borges, che anche questa appena pubblicata, ce lo riracconta questo scrittore argentino, che in realtà si potrà raccontare all'infinito, così come i suoi libri si possono leggere e rileggere. Almeno secondo me è uno dei miei scrittori preferiti. Quell'idiota di Borges, idiota tra virgolette, perché tra le molte figure appunto ispiratrici, di secondo Massarenti, dell'opera di Borges, ci sono i due idioti sapienti di Flaubert, Bouvard e Pécuchet, e si rivelano le vere muse dello scrittore argentino, un umorismo in cui l'intelligenza umana confina sempre pericolosamente con la stupidità. Sempre di Gianfranco Ravasi, la recensione di due libri sulla bioetica: La bioetica del teologo, riconosciuto senza riserve il progresso biomedico medico è necessario interrogarsi su alcuni suoi aspetti invasivi e manipolativi. Una recensione della mostra dello street artist Vansky di Pia Capelli, la trovate invece a pagina 41 del Domenicale, Graffi di Topo Anonimo, forse alcuni di voi l'hanno presente, uno delle più famose opere di Banksy è appunto quello di un topo che ha in mano una specie di pennino con il quale fa i suoi graffiti. La lettura del Corriere della Sera affida la copertina a una foto di Michel Houellebecq, lo scrittore francese che però di recente si è anche molto dedicato alla fotografia. Dalle pagine interne vi segnalo un interessantissimo articolo di Telmo Pievani, un etologo che forse avrete sentito anche alla radio qui da noi dialogare spesso con il nostro Federico Taddia. È un articolo dedicato, che prende spunto da molti libri sulle formiche, dedicato appunto alle formiche. Pensate, almeno 50 specie di questi insetti rapiscono le loro cugine per asservirle. Alcune non sono capaci di lavorare ma soltanto di combattere, quindi conducono continue incursioni per procurarsi manodopera. In caso contrario rischiano di morire di fame, ma a volte, hanno provato alcuni studi recenti, le formiche operaie sfruttate si ribellano. Il titolo dell'articolo: schiavitù, guerre, attacchi chimici, quanto sono razziste le formiche. E poi una divertentissima recensione a un libro che in realtà per ora trovate solo in inglese, che si chiama The Queue, cioè la coda. La fila può essere volta per volta destino, protezione e rivolta. Una psichiatra egiziana racconta quella dell'inverno arabo. E insomma, interessante, che sapete che in Italia c'è anche la professione del codista inventata di recente. Colui che si mette in coda, o colei anche che si mette in coda dietro pagamento, per appunto alleviare da questa pratica spesso che spesso si incontra quando si fa negli uffici pubblici, per alleviare appunto la persona che dovrebbe mettersi in coda. La Domenica della Repubblica ha invece un lungo articolo di Omero Chai da Buenos Aires, le nuove madri di Plaza de Mayo. Oggi come ieri cercano le loro figlie desaparecidas, e in questo caso appunto più che i figli anche tutte le figlie. La rubrica Straparlando, le lunghe interviste di Antonio Gnoli, illustrate sempre da un bel disegno di Riccardo Mannelli, questa settimana è Eugenio Monticolla, che è forse il più celebre marionettista italiano. La mia vita tra terra e cielo, appesa ai fili delle marionette. E poi vi segnalo l'ultima segnalazione alias del Manifesto, la segnalazione di una mostra su Christo. Tra poco sapete si aprirà sul Lago di Iseo la nuova installazione di questo artista, che permetterà come di camminare sulle acque del lago. Però contemporaneamente a Brescia c'è una mostra curata da Germano Celant che si chiama Water Projects, che racconta tutti i progetti realizzati da Christo sull'acqua, transiti sull'acqua per cucire l'utopia. In realtà abbiamo tempo anche per segnalarvi la copertina di Macro, il supplemento domenicale del Messaggero, La porchetta sfida il kebab. Questo è dedicato allo street food, questa analisi, e con le recenti rivendicazioni della Coldiretti, che vuole promuovere di più lo street food italiano e magari mettere un pochino più in secondo piano quello che è stata la grande ascesa degli ultimi anni, cioè per esempio appunto il kebab in strada. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie in regia a Carmelo Lauricella e ancora una buona domenica da Giulia Crivelli.